a ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Io ricordo ciò che mi disse Ninni Cassarà allorché ci stavamo recando assieme sul luogo dove era stato ucciso il dottor Montana. Mi disse: convinciamoci che siamo dei cadaveri che camminano. Sapeva di dover morire Paolo Borsellino. Dopo la strage di Capaci lo sapeva ancor di più, ma novello, eroe, tragico, combatté fino alla fine, disperatamente, per altri 57 giorni, fino a quando un'auto, una Fiat 126 imbottita di tritolo in via D'Amelio, non fece saltare in aria anche lui, insieme ai 5 agenti della sua scorta, Emanuele Aloi, Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosina e Claudio Traina. Era il 19 luglio 1992, 20 anni fa, un anniversario che cade quest'anno nel mezzo del più infuocato scontro istituzionale tra il Colle e la Procura di Palermo per le intercettazioni nell'inchiesta sulla trattativa Stato-mafia. Sembra che Paolo ogni anno venga ucciso di nuovo. Non solo la sua morte, non solo la sua scomparsa, non solo l'autobomba, ma anche le bugie, ma anche i dubbi e le polemiche, io credo che lo uccida un'altra volta. E in tutto questo elenco lei inserisce anche la decisione del Quirinale? Questo contrasto, quello che fa male. Ci deve essere chiarezza e non ci deve soprattutto essere il dubbio che ci sia qualcuno che voglia fermare questo percorso di verità. Lei ha detto: mi sento schiaffeggiata. Lo schiaffo è qualcosa che veramente ti offende. In un momento come quello del 20° anniversario, non possiamo avere il dubbio che tra Procura e Presidenza della Repubblica ci sia qualcuno che stia agendo scorrettamente. So soltanto che per 20 anni questo percorso di verità sicuramente è stato ostacolato. Io sento un'aria, un'atmosfera, respiro una situazione che somiglia troppo a quella del 92. In quel terribile 92, evocato da Rita Borsellino, la sorella del giudice ucciso, un patto inconfessabile tra Stato e mafia fece da sfondo alla drammatica stagione delle bombe, una trattativa emersa nei suoi contorni solo con le ultime indagini sulla strage di Via D'Amelio. Quel 19 luglio del 92, mentre Palermo di nuovo bruciava di scene di guerra, il boss Giuseppe Graviano festeggiava e guardava già oltre. Abbiamo dimostrato di colpire dove e quando vogliamo, commenta il capomandamento di Brancaccio col suo braccio destro, quel Gaspare Spatuzza, poi pentito, diventato un caposaldo delle nuove inchieste che coinvolgono ex ministri come Mancino e Consuo, militari come Mori e Subranni, politici come Marcello Dell'Utria, indagato pure in un nuovo filone collaterale con l'accusa di estorsione ai danni dell'ex premier Silvio Berlusconi, convocato come teste a Palermo insieme alla figlia dai PM. Anche i loro nomi, quelli di Dell'Utri e Berlusconi, fece in aula Spatuzza nel 2009, nel primo processo d'appello per Dell'Utri, poi annullato con rinvio dalla Cassazione. Questa storia dell'attentato all'Olimpico è ha tutta un'anomalia ben diversa. Innanzitutto di cambiare, di potenziare la portata, di muoverci tutto il gruppo e di aspettare a lui per l'impulso finale. E io ho partecipato all'attentato di Costanzo, ho partecipato all'attentato di Firenze, e non c'è stata mai un'anomalia del genere. Lei ebbe occasione di parlare, di confidare, di rivelare a qualcuno che le era stato fatto il nome di Berlusconi e Dell'Utri nel corso di quella conversazione con Giuseppe Graviano? Ne siamo noi nel 95, dopo l'arresto di Mangano Antonino, soprattutto lo Giuliano Francesco mi spronava per capire innanzitutto dei fratelli Graviano l'anomalia dell'arresto, perché si suppone che qualcuno, i fratelli Graviano, se li è venduti. E gli dissi di stare tranquillo che siamo in buone mani, quindi gli dissi che c'era di mezzo, a quel punto Silvio Berlusconi. Soprattutto la collaborazione di Spatuzza ha fatto riscrivere le indagini sulla strage di Via D'Amelio con la scarcerazione di chi era stato già condannato per effetto di un errore o di un clamoroso depistaggio, per dirla con i magistrati di Caltanissetta, partito dalle parole del pentito Scarantino e poi con i nuovi mandati di cattura. Inchiesta che si intreccia con quella sulla trattativa, perché forse la morte di Borsellino fu accelerata proprio perché di ostacolo al patto Stato-mafia. Questo stando alle ricostruzioni della Procura di Caltanissetta guidata da Sergio Lari. Noi abbiamo ricostruito un enorme puzzle. In questo puzzle, per quanto riguarda la strage di Via D'Amelio, c'erano tessere false e tessere mancanti. Abbiamo individuato le tessere false e qualcuna delle tessere mancanti, ma non tutte. Ecco, procuratore, invece, a proposito di Via D'Amelio, quando ci sono stati questi ultimi 4 arresti, lei ha anche parlato di un depistaggio colossale. L'ipotesi che il giudice Paolo Borsellino possa essere stato tradito anche da un uomo interno allo Stato, proprio perché ostacolava la trattativa. Io ho detto: o ci troviamo di fronte a un colossale depistaggio o ci troviamo di fronte a un clamoroso errore giudiziario. Evidentemente chi si legge con attenzione le centinaia di pagine che abbiamo dedicato a questo tema potrà cogliere anche verso quale tesi noi siamo più propensi piuttosto che un'altra. Lei una volta mi disse, parlando sempre di queste inchieste sulla trattativa, che il ricordo di Borsellino, per primo Paolo Borsellino, non avrebbe mai accettato l'idea che in carcere ci fossero delle persone innocenti condannate per dei reati gravi come quelli delle stragi che non avevano commesso. Ecco, oggi che in qualche modo le vostre inchieste stanno dipanando questa matassa complicata, come lei stesso diceva, non è stata ancora del tutto sciolta. Voi avete anche sentito tantissime persone, a cominciare anche da tantissimi uomini delle istituzioni, ministri, ex ministri, uomini delle forze dell'ordine, del Ministero della Giustizia, insomma tanti rappresentanti anche della macchina dello Stato. Ecco, avete avuto tutta la collaborazione e tutta la, diciamo così, la disponibilità a ricordare e a dichiarare quello che ricordavano riguardo a quei giorni e a quelle fasi complicate? Ma è una domanda a cui è difficile dare una risposta, perché noi evidentemente conosciamo soltanto quello che ci è stato detto e ignoriamo che ci siano altre verità che ci sono state taciute da altre persone diverse da quelle che abbiamo sentito. Noi su questi temi abbiamo sentito l'ex ministro Martelli, la dottoressa Ferraro, l'avvocato Contri, lo stesso Mancino e via dicendo. Molti di costoro ci hanno riferito di ricordi che riguardavano appunto quella convulsa fase delle trattative del giugno-luglio del 92. Onestamente non ci aspettavamo queste dichiarazioni, ci hanno alquanto sorpreso, in quanto pensavamo che molte di quelle cose sarebbero potute uscire fuori prima, diciamo. Se ci sono però altre persone che conoscono pezzi di verità che a noi non sono stati riferiti, io questo non lo so. Certamente ci sono in questo momento tutti i vertici di Cosa Nostra, a cominciare da Salvatore Rina, che io sono andato personalmente a sentire con i miei colleghi per ben 2 volte, sanno benissimo se ci sono stati o meno concorrenti esterni e quale sia stata l'evoluzione, diciamo, degli aspetti più senti della trattativa, e anche con riferimento alla decisione di accelerare l'uccisione del dottore Borsellino. Il mio auspicio è quello che ci possa essere un altro spatuzza, qualcuno che ci possa consentire di ricostruire quelle tessere mancanti di questo enorme mosaico investigativo che abbiamo cercato con tanta fatica e con grande sacrificio da parte di tutti i miei colleghi di ricostruire. E ha notato qualche cambiamento da parte di Rina oppure no? Ma io credo che Rina sia rimasto lo stesso di sempre, un uomo di una grande astuzia, di una grande intelligenza, ma soprattutto un criminale senza scrupoli. Non credo che da Rina ci si possa aspettare un passo indietro, forse da altri, ma difficilmente io penso che Rina potrebbe decidere di collaborare con la giustizia, lo reputo una cosa impossibile quasi. Però ci possono essere altri importanti uomini ai vertici di Cosa Nostra che potrebbero invece decidere di fare questo passo. Io credo che questi 20 anni di antimafia non possono non aver reso evidente come lo Stato sia stato capace, con il codice in mano e con gli strumenti del diritto, di ridimensionare il ruolo di Cosa Nostra. Oggi non possiamo affermare che Cosa Nostra del 2012 sia la stessa di Cosa Nostra del 92, quando ha seminato di morti l'Italia, parliamo di centinaia di feriti, di decine e decine di morti, interi tratti autostrada subentrati col tritolo, edifici e quant'altro. Cioè, quella era una mafia organizzata in maniera verticistica sul territorio, in grado di mettere in crisi le stesse istituzioni democratiche. Oggi tutti i grossi capi mafiosi sono in gara al 41 bis da oltre 20 anni e forse, io spero, che qualcuno possa fare un esame di coscienza e chiamarci. Noi siamo sempre pronti ad accertare la verità e lo abbiamo dimostrato facendo scarcerare 7 persone condannate all'ergastolo che sicuramente non erano degli stinchi di santo. Lei ha detto poco fa, certo, come dire, a proposito delle tante persone che avete ascoltato, vi hanno raccontato delle cose che riguardavano ricordi vecchi di 20 anni. Vi siete fatti un'idea del perché tutto questo e questi ricordi, diciamo, vi siano stati affidati 20 anni dopo da parte di uomini politici dello Stato, insomma? Ma questa è una domanda che coi colleghi ci siamo posti. Ci possono essere più chiavi di lettura: o avere sottovalutato l'importanza dei propri ricordi, oppure avere pensato che le nuove indagini nate dalla rivelazione di Ciancimino e comunque la ripresa degli accertamenti sulla cosiddetta fase della trattativa può avere, diciamo, indotto queste persone in convincimento che comunque noi saremmo arrivati ad acquisire questi elementi, allora piuttosto che essere diciamo convocati, meglio presentarsi spontaneamente. Francamente sono domande a cui è difficile dare una risposta. Noi lo abbiamo chiesto a queste persone, la risposta è stata che era stato sottovalutato l'importanza, diciamo, di questi ricordi, per così dire. Pianse Paolo Borsellino nei 57 giorni del ricatto della mafia. Pianse perché un amico lo aveva tradito e quelle lacrime riconducono direttamente agli ultimi giorni del giudice, tra patti inconfessabili e memorie troppo a lungo sbiadite, mentre 20 anni dopo, su una delle pagine più buie della storia repubblicana, si apre uno scontro istituzionale senza precedenti tra il Colle e la Procura di Palermo. Non si tratta soltanto di un collega o compagno di lavoro, ma si tratta probabilmente del più vecchio dei miei amici che è venuto meno. La mia vita è cambiata anche con riferimento alle misure di protezione che si sono estremamente inasprite nei miei confronti. Ho temuto nell'immediatezza della morte di Falcone una drastica perdita di entusiasmo nel lavoro che faccio. Fortunatamente, se non dico di averlo ritrovato, o almeno ritrovato la rabbia per continuarlo a fare. Una rabbia che portò Paolo Borsellino a lavorare senza sosta in quei 57 giorni dopo la strage di Capaci, perché sapeva di non avere molto tempo e perché quello che stava scoprendo appariva ogni volta più inquietante, come lui stesso confidò alla sorella di Giovanni Falcone, Maria. Io ho parlato con Paolo proprio soprattutto, è venuto a casa mia assieme allora al presidente Cossiga, poi ci sentivamo e l'ho visto per il 30° della morte di Giovanni, quando mi portò in un campetto di calcio che era vicino alla chiesa di San Francesco dove era stata detta la messa, e mi disse: qua giocavamo a calcio. E in quell'occasione mi disse di stare tranquilli, che stava scoprendo delle cose importantissime, e disse anche la frase: ma che Tangentopoli e Tangentopoli. In che senso? Cioè, erano molto peggio di Tangentopoli. Tutto quello che lui stava scoprendo, per scoprire, sì. E lei pensa oggi, alla luce di quello che è venuto fuori poi, che fosse collegato anche alla trattativa tra Stato e mafia? Ma a questo punto penso di sì. Scoprì che lo Stato stava trattando con la mafia dei Corleonesi per interrompere la stagione delle stragi, scoprì quelle che sarebbero diventate le richieste di Totò Riina nel famigerato Papello, scoprì i contatti tra i boss e apparati vari attraverso più mediazioni. Di sicuro Paolo Borsellino scoprì che anche un suo amico lo aveva tradito, come è oggi agli atti e come lui stesso confidò a due giovani colleghi che andarono a trovarlo dopo la morte di Falcone, tra loro l'ex PM Massimo Russo, ora assessore regionale. La strage di Capaci lo aveva profondamente turbato, non era più il Paolo Borsellino che conoscevamo, col sorriso sempre pronto, con la sua eterna sigaretta in bocca, con la sua carica umana, col suo carisma, con la sua simpatia, era un'altra persona, consapevole del destino cui andava incontro. Nel giugno del 92 ci trovammo io e Alessandra Camassa, l'altra collega marsalese, a Palermo, lo incontrammo incontrammo nella sua stanza, era piegato dal dolore e dalle responsabilità che sentiva gravare su di lui. Ci venne incontro, ci abbracciò, ci salutò, si sedette nuovamente davanti alla scrivania sulla sua sedia a parlare. A un certo punto interruppe e disse: qualcuno mi ha tradito, qualcuno mi ha tradito. E poi si alzò dalla sedia, girò la scrivania e si accasciò su una poltrona, un divanetto a due posti, ricordo perfettamente, con le lacrime agli occhi. E poi aggiunse, ma erano due momenti diversi, anche qui è un nido di vipere, facendo riferimento alla procura di Palermo. Questo in quel momento preciso, cioè dopo la strage di Capaci, quando l'attenzione su Borsellino, l'attenzione nazionale era su di lui, tant'è vero che anche la sua protezione era diventata ulteriormente più stringente, come lui stesso raccontò in una delle ultime interviste, quella cosa lì voleva dire qualcosa in particolare, non era soltanto la sensazione, diciamo, dell'imminente pericolo che aveva. Lui appunto pensava di essere stato tradito da qualcuno dello Stato. Col senno di poi, dopo tutto ciò che i colleghi di Caltanissetta stanno ricostruendo, probabilmente aveva un senso preciso quella sua affermazione. Era stato tradito da qualcuno. Non fece nome? No, non fece nome. Stavate già parlando della sua situazione in quel momento, dopo la strage di Capaci? In realtà parlavamo delle vicende processuali di Marsala, che lui ci aveva lasciato. Era lo sfogo, evocava una condizione che lui evidentemente aveva ben chiara. L'idea di un tradimento, nelle parole di un magistrato, evoca certamente un tradimento di tipo istituzionale. Né a voi disse che ne aveva parlato con qualcun altro, che l'aveva appuntato da qualche parte, che aveva lasciato qualche indicazione? No, nulla di questo. Né d'altra parte, come dire, noi andammo oltre, ci limitammo ad ascoltare, a rimanere un po' basiti, intanto dalla sua condizione fisica, vedere Paolo Borsellino che piangeva, insomma. Anche perché, come anche ha raccontato a verbale la sua collega Alessandra Camassa, Paolo Borsellino era un uomo all'antica, da detto, e non l'aveva mai fatto di piangere, e quindi... Lei anche con la moglie di Borsellino ne aveva parlato di questo incontro che avevate avuto, di questo suo sfogo? Credo di sì, certamente avevo sempre parlato con Alessandra, avevamo meditato su questo sfogo, sulle parole che ci consegnò. Credo di sì, nel senso che non lo ricorda? Non lo ricordo bene, credo comunque di averne parlato con Agnese. Che cosa le disse? Non ricordo. Ci furono i tradimenti e ci furono le delusioni in quei 57 giorni in cui lo Stato vacillò. Ci furono i segreti scoperti da Paolo Borsellino e i misteri mai soluti, spariti come l'agenda rossa del giudice. Aveva intuito fino a che punto fosse arrivata la trattativa. Di sicuro, pochi giorni prima della strage, il giudice ebbe un incontro anche con l'allora ministro dell'Interno Nicola Mancino, ora indagato per falsa testimonianza, che così, e solo ora, 20 anni dopo, ricorda quella stretta di mano dalle telecamere della 7. Ci fu un discorso del capo della polizia, io ricevo una telefonata interna perché il capo della polizia si ritira nei suoi uffici dopo aver fatto un saluto. Parisi mi dice se avevo niente in contrario a ricevere il giudice Borsellino. Io dico non ho nessuna difficoltà, io non conoscevo fisicamente Borsellino, sapevo chi era, la sua personalità, la sua autorevolezza nel pool antimafia di Palermo. Borsellino si incontra con me con una stretta di mano. Io non conoscevo Borsellino. A confermare che si sia trattato di una stretta di mano, lo dice anche il giudice Alicuo che lo accompagnava. Borsellino era alla DIA per interrogare per la prima volta il pentito Gaspari Mutolo. Torna da Mutolo, tutto arrabbiato, inquieto, si fumava una sigaretta dietro l'altra. Mutolo dice, sintetizzo, ma non è contento di essere andato al Viminale a salutare il ministro. Che ministro è ministro? Io ho visto Contrada e Parisi. Chiudo qui, perché questo pentito è stato ritenuto attendibile, io posso avere peccato nel non conoscere fisicamente il giudice Borsellino, ma sapevo chi era il giudice Borsellino. Due telefonate col capo dello Stato, insieme alle conversazioni tra l'ex ministro Mancino e il consigliere giuridico del Colle D'Ambrosio, nelle registrazioni della Procura di Palermo sono finite anche due intercettazioni tra Mancino e direttamente il presidente Giorgio Napolitano. Conversazioni irrilevanti per i magistrati siciliani, ma conversazioni che per il Colle sono assolutamente vietate, né possono in alcun modo essere valutate o trascritte, ma solo distrutte. Per questo il Quirinale solleva il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato e invoca l'intervento della Consulta. La Procura, guidata da Francesco Messineo, dall'altra parte, rivendica la correttezza del suo operato. Secondo il nostro punto di vista, le intercettazioni, se ritenute non rilevanti, sono tutte destinate alla distruzione. Poi i tempi, i modi, le norme alle quali attenersi sulla distruzione ovviamente possono essere oggetto di discussione e di argomentazione, e su questo punto noi siamo pronti a recepire qualsiasi indicazione valida. Uno scontro tra poteri che brucia ancor di più nel ventesimo anniversario di una strage, quella di Via D'Amelio, che segnò il momento in cui lo Stato vacillò sotto il ricatto della mafia. Una strage che coi suoi segreti fa ancora paura 20 anni dopo. A ciascuno il suo, termine qui. Vi ricordo che potete riascoltare questa come tutte le altre puntate dal sito radio24.it. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce e sul blog Storiacce. Su Twitter l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti.